amici, Carmelo Marsala. Numero 15, Alessandro Pirrone. Numero 16, Carlo Sallo. Numero 18, Luca Terrasi. Numero 20, Scarlata. Allenatore Massimiliano Fiasconaro. Naturalmente un saluto va anche al mister del Trapani, Giacomo Genovese. A tutti quanti voi buon divertimento, e soprattutto volevamo ricordare che l'incontro verrà radio trasmesso in diretta su CRM, Happy Radio in diretta audio e diretta video. Buonasera, siamo alla terza partita, terzo incontro del girone di ritorno del C2, ex C2, C nazionale, ora regionale di quest'anno, è la seconda partita di quest'anno. Peppe, sei stato l'anno, domenica scorsa a Bagheria, ci sono stati fuochi d'artificio, ci racconterai di una partita veramente eccezionale, strana. Una partita strana per Cefalù, che ha vinto dopo un tempo supplementare contro l'ultimo in classifica, se non vado errato. Un arbitraggio veramente incomprensibile. Comunque, sta per iniziare ora la partita e ci apprestiamo a fare questa radiocronaca in compagnia degli amici di Peppe e di Roberto. Cefalù presenta ancora le mancanze, le assenze di due playmaker, addirittura di Fabrizio Cefalù e di Angelo Lombardo, che sono fuori per motivi di lavoro, mentre per motivi di lavoro sempre è stato allontanato dalla squadra, questo è comunicato di questa settimana, Urso, che dava una mano là sotto canestro, è stato artefice di qualche vittoria con qualche tiro da tre da fuori. Il buon, bravo, spumeggiante, grande Carlos Gallo è arrivato da due giorni dalla trasferta argentina, dalle feste di Natale, quindi quest'oggi sarà in campo, fuso orario permettendo, e quindi con dovuta, diciamo, limitazione. Speriamo che comunque dall'Argentina sia arrivato carico. Abbiamo i giovani di Cefalù attorno a Sgarlata per far sua questa vittoria di un Cefalù Zanella Basket che è, diciamo, solido al settimo posto e quindi dovrebbe arrivare ai playoff, che, a cui accedono 8 squadre. Settimo posto del Cefalù e a 4 punti dall'ottavo posto e a sua volta a 6 punti da questo Trapani, che a quanto pare segue in classifica. Tra l'altro questo Trapani che si esalta con le grandi, perché è un Trapani giovane che corre tanto e quindi con le grandi sente particolarmente l'incontro. Sì, la classifica ci premia per ora perché siamo al settimo posto, un obiettivo che si era prefissa la dirigenza all'inizio del campionato. Vediamo se riusciamo ad acciuffare il sesto posto, che per noi sarebbe davvero ottimale, anche se è un'impresa quasi improbabile. Oggi l'importante è non perdere, viste le assenze che abbiamo in squadra. Naturalmente Trapani viene a Cefalù per affrontarci a viso aperto, vediamo cosa succede, soprattutto fatemelo dire, dopo l'esperienza di domenica scorsa, speriamo che gli arbitri quantomeno siano imparziali, non dico di parte, ma quantomeno imparziali, come giusto minuto che sia. Minuto di raccoglimento. E allora intanto volevo salutare anch'io i nostri radioascoltatori, credo, visto che la mia è solo la presenza colorita a questa radiocronaca. Sei diventato un esperto. No, ormai il commento tecnico spetta soltanto a voi due. Dicevo, questo minuto di silenzio un po' sprovviste, però oggi ho seguito le partite di calcio, anche là si sono un po' in tutti i campi, hanno rispettato il minuto di silenzio, quindi credo sia adesso, però non vorrei prendere una cantonata, sia per il drammatico incidente che ha caduto alla Concordia, la nave che si è arenata, e quindi con le conseguenze che tutti quanti conosciamo, i morti e i tanti feriti. Credo, poi magari ci informeremo meglio durante la radiocronaca. Allora, la partita è iniziata, stiamo radio trasmettendo dal Pala Ignazio Cefalù questo incontro valevole per il campionato Serie C regionale tra il Basket Zanella Cefalù e la Virtus Trapani. Per la diretta, il commento tecnico Giuseppe Livecchi e Ciccio Delise. Cefalù entra con Marsala Monaco, Tumminello che ora ha la palla sgarlata e Terrasi, praticamente quattro ragazzi di Cefalù, si è liberato bene sgarlato sotto canestro subendo fallo dal 24 del Trapani che dovrebbe essere campo. Allora il Trapani invece in campo con il numero 8 Malizia, il numero 18 Perrone, il numero 24 Campo, il numero 7 Gentile ed il numero 26 il numero 12 di Vita. Allora intanto abbiamo già il primo minuto di gioco che è andato via con due falli, adesso il primo subito da Cefalù e il secondo subito da Trapani e il punteggio è 0-0 e hanno sbagliato sotto canestro due volte il Cefalù. Ha perso palla Tumminello, loro un contropiede, questo ragazzino, il numero 7, se non ricordo male, è Gentile. Sì, è un ragazzino del Trapani Basket, la squadra più titolata, diciamo, di Trapani, che sta facendo le ossa in questa squadra di C2. In quanto giocava con mio nipote Lorenzo, quanto erano più piccolini del Roma. Cosa dire di questa squadra? Questa è una squadra di ragazzi giovani in cui sono stati innestati qualche ragazzo un poco più esperto, allenata da Genovese che è stato anche allenatore in B1 ai tempi del grande Trapani e poi ha girato un po' tutta l'Italia. L'arbitraggio di oggi, volevo spendere una parola, è in campo l'arbitro Lucifero, figlio di quel Lucifero giocatore che ha giocato tanto nei campionati di Serie B, Milazzo, Messina, Barcellona, e mi dicono che sia veramente un ottimo allenatore. Questo è frutto forse delle lamentele per l'arbitraggio di Bagheria, Peppe? Ma può anche darsi, perché credo che le lamentele siano venute da ambo le parti, sia da Bagheria che da Cefalù, e probabilmente i designatori hanno finalmente deciso di mandare una coppia arbitrale che sia quantomeno di una serie superiore o almeno avvezza ad arbitrare in serie superiori. Allora, intanto Cefalù sta recuperando un pallone, noi subiamo 2-0 per ora, due tiri liberi realizzati da Gentile, da questo ragazzo di cui parlavi tu poc'anzi, Carmelo Monaco nel quarto di sinistra, nel quarto sottocanestro di sinistra riceve un pallone, prova a servire Peppe Terrasi e guadagniamo una rimessa dal fondo quando mancano 10 secondi allo scadere dei 24 secondi. Chiama lo schema Carmelo Marsala, adesso Alessandro Tumminello prova una penetrazione, scarica su Carmelo Marsala che tira da tre punti ma il tiro non va a segno e adesso nuovamente Trapani, l'abbiamo detto, sono molto rapidi questi ragazzi. Cefalù in quest'attimo mi sembra ancora che debba prendere le misure, giusto Ciccio? Ho parlato un poco con Giacomo Genovese, ha detto che i ragazzi questa settimana si sono allenati un poco maluccio, diciamo, con la testa stanno addirittura alla partita di derby che c'è stasera fra Inter. Intanto il contropiede sbaglia passaggi la guardia Tumminello e Marsala, mi sembrano un poco troppo sottotono. Il tiro di Marsala non ha toccato neanche il ferro, Tumminello ha già perso due palloni, tanto chi sta portando palla avanti il capitano Monaco, quindi urge secondo me l'ingresso in campo di Carlos Gallo. Sotto canestro l'esperienza di Sgarlata ai primi due punti per Cefalù. E penso proprio che Nino Sgarlata sarà oggi un uomo partita, credo insieme a Peppe Terrasi, perché siamo molto più alti rispetto a Trapani e sotto dovremmo servire parecchio i lunghi sotto. Si è ripetuta un po' la storia di Bagheria, Carmelo Monaco che praticamente si sostituisce al play, adesso commettiamo un fallo in difesa subiamo un canestro e adesso Trapani avrà la possibilità di tirare. Non sottovalutiamo questa partita, Peppe, questi ragazzi sanno giocare a pallacanestro, sono tutti giovani, il vivaio del Trapani Basket, quindi una società blasonata, sono stati allenati per anni da Peppe Barbara, che è uno dei migliori preparatori di giovani in Italia. Basti pensare che fu quello che tirò fuori Pittis e ha tirato e allenato per 2 anni addirittura Gallinari, che ora sta nell'NBA, quando era allenatore su al nord, ora non mi viene bene la squadra, vicino Milano. Quindi diciamo questi sono ragazzi che se si mettono sotto con la forza e con l'esperienza va bene, altrimenti se li lasciamo giocare sanno giocare a pallacanestro. Noi furbamente cerchiamo di servire Sgarlato sotto canestro e facciamo altri 4 punti, 7 a 4 a 7 minuti e 09 dalla fine del primo quarto, una partita che si presenta non proprio facile per Cefalù. Ma esattamente, per me non è per nulla facile questa partita, come dicevi tu, mi piace sentire il tuo commento perché sei la storia del basket, Ciccio. Ma così non la ricordo. Intanto Sgarlata mette a segno il canestro, il tiro libero conseguente al suo fallo, 7 a 5 per Trapani quando mancano 7 minuti allo scadere. Roberto, io intanto chiedo a te un commento, che cosa si mormora giù in gradinata, hai sentito un po' di malumori? No, allora io l'unica cosa che sto notando è il fatto che il Trapani sta schierando dei ragazzi giovanissimi, lo faceva notare anche Ciccio in radiocronaca, e quindi credo che facciano la loro arma vincente il contropiede, e questo sta portando i propri frutti. Poi ancora non sono riuscito a capire, ma credo sia per quello il minuto di silenzio, sia per la concordia, quindi l'affondamento della concordia con i morti a seguito, quindi possiamo dare quasi per certo che sia quello la motivazione del minuto di raccoglimento. Sì, confermo, quasi sicuramente sarà per questo. Anche nei campi di calcio di Serie A hanno rispettato tutti per questo lutto che ha colpito l'Italia, una cosa veramente impensabile, una cosa da Titanic, che ancora in Italia in queste navi così grandi non pensavamo poi potessero succedere. Ritornando alla partita, il Trapani si schiera sull'arco, la difesa a zona del Cefalù cerca di evitare le penetrazioni, ma campo è lasciato libero dall'angolo e fortunatamente Cefalù sbaglia. Monaco continua a portare la palla avanti, Tumminello non si fa vedere, un mezzo passo di Marsala e l'arbitro non gli ha fischiato il fallo, di conseguenza ha compensato. Ecco campo che va uno contro uno, questo ragazzo è molto forte fisicamente, serve dell'angolo e i ragazzi dall'angolo la mettono dentro, si sono lasciati liberi e Cefalù non reagisce. Siamo 8 punti sotto a 5 minuti e 30 secondi dalla scadere del primo quarto, ma io credo che anche il pubblico non si stia facendo sentire, siamo ancora un po' troppo, non lo so, negli spogliatoi, non so cosa dirti. Guarda, se non ci fosse Sgarlata, che praticamente su 7 punti ne ha messi tutti e 7 lui, tutti lui. Cefalù sarebbe ancora cosa zero. Pensi? Pirrone sul cambio là, forse per Tumminello, ma io vorrei sul cambio, questa è una partita dove gli esperti segnano, quindi subito Gallo in campo e vedere in che stato è Gallo. Non so francamente fisicamente come sta, per carità, però questa è una partita che vince l'esperienza. Continuano a segnare Trapani continua a segnare perché la prima linea difensiva di questa nostra zona 2-3 fa passare di tutto dalle guardie. Io proverei subito a cambiare sia Tumminello che Carmelo Marsala, probabilmente facendo entrare Carlos Gallo e esatto. Pirrone, oppure Carlos Gallo e Maniscalco, lì deve decidere ancora Sgarlata peccato. Che da solo fa tutto lui praticamente. 9 punti su 9, io non so veramente, meno male c'è Sgarlata, altrimenti saremmo 15. Io non vedo come Sconaro non faccia servire pure Peppe Terrasi, che è il più alto di tutti. Ciccio, c'è stata la regola del non c'è due senza tre, ha dovuto tirare 3 volte per riuscire a fare canestro. L'importante poi però che l'abbia messo dentro. Ricordiamo il parziale 9 a 15 per il Trapani sul basket Zanella Cefalù. Ancora una volta credo che ci sia Sgarlata che subisce fallo su questa su questo assist che gli ha fatto Carmelo Monaco al centro della zona. Intanto il primo cambio per Trapani, Fiasconaro ci ha ascoltato, è entrato anche da noi Pirrone al posto di Tumminello, vedremo se questo innesto sarà importante per cambiare marcia a questa partita che fino ad ora ci vede subire 15 a 9 quando mancano 4 minuti e 9 secondi e c'è Sgarlata in lunetta per tirare 2 tiri liberi. coprire il contropiede in questa prima parte iniziale, l'errore che non ha fatto Cefalù, e soprattutto in difesa, come dicevi tu, stare più attento a quelle linee di campo lasciate un poco troppo libera, a qualche rimbalzo offensivo, e quindi difesa molto molto più forte. Comunque l'esperienza che sta facendo qualche cosa, i ragazzi sono ancora un poco, diciamo, bloccati. Circola bene la palla il Trapani sulla via, ecco il doppio palleggio, passano, circolano sulla una mezza ruota. Ecco, questo è buono per la difesa di Cefalù, che non ha permesso penetrazioni, solo un tiro sulla linea del 3. Carmelo Marsala cerca di scaldare la mano e finalmente la riscalda. E siamo sotto 15 a 14 a 3 minuti e 35 dalla fine. Forse la partita sta incanalandosi nella migliore, la bellezza del basket, Ciccio. In un minuto siamo passati da meno 8 a meno 1. Certo, anche perché secondo me la difesa di, dopo la sospensione di Fiasconaro, si è abbastanza registrato. Vedo il Trapani che non fa più contropiede, di nuovo Marsala prova ma sbaglia, forse ha forzato un poco, doveva girare un poco di più questa palla. Vedo la difesa un poco più concentrata, sarà pure la tranquillità. Ecco, vedi, si sono rilassati un attimo e Gentile li ha puniti. Ecco, Massimo Fiasconaro fa bene a essere molto molto arrabbiato, perché questa era, sai com'è, una vena da non spezzare. Non dovevamo far segnare ora, dovevamo raggiungerli, addirittura superarli. Dovevamo superarli, infatti lunga. Secondo me è stato sbagliato il classico tiro al primo passaggio che si fa al mini basket. Non si dovrebbe fare in queste serie. Marsala forse è stato precipitoso nel provare la seconda bomba da tre, magari si sentiva la mano calda. Non c'era nessuno al rimbalzo. Io credo che una delle cose che ha fatto un po' un personaggio Massimo sono proprio i suoi time out, quando chiama i time out incazzato, consentitemi il termine, ormai si può dire più che mai, soprattutto quando si sbagliano delle cose elementari come in questo caso. E noi ne sappiamo qualcosa, perché qualche anno fa, quando facevamo le radiocronache, riuscivamo a mettere il microfono proprio a ridosso della panchina e riuscivamo a sentire tutte le ire che uscivano la poi voce di Pappalardo. infatti il Massimo Fiasconaro, ma è molto molto arrabbiato, perché sa che i suoi stanno prendendo dei canestri che potrebbero evitare. Roberto, abbiamo perso l'occasione in quel contropiede di portarci in vantaggio, adesso siamo sotto di 3, 14-17. Ritorniamo in Radio Cronaca con Giuseppe Livecchi. Abbiamo il tempo di vedere fischiare un passi a Giuseppe poco Terrasi, convinto. Poco convinto. Lui Terrasi, sì, poco se convinto. Decidi di entrare, o entri deciso o non entri, ti fermi e passi la palla. Ha fatto un'entrata a 3 all'ora. Un'entrata che sembrava la moviola, esatto. Esatto, quindi l'arbitro ha chiamato passi. Parlano un poco, certo Terrasi che deve dare una mano a questa squadra, Peppe, sicuramente lui sarebbe l'arma vincente. Ma tra l'altro non so se hai notato, Fiasconaro l'ha schierato pivot alto, lo fa giocare praticamente al limite della zona del tiro libero. Questa è una cosa positiva, perché in questa maniera tiene un lungo fuori dalla zona difensiva. Tanti lunghi loro, però, quindi non è una mossa che mi piace. Peppe, a te non questo. Piace? No, sotto canestro deve stare. Se i nostri tirano frettolosamente, lui almeno in posizione per prendere il rimbalzo, capisci? Questo è sotto, vero. La sua altezza. E questo è vero. Oggi è da giocare, però Sgarlata in effetti sta rendendo di più lui sotto, e quindi fa giocare Sgarlata sotto. Probabilmente fischiano tutto oggi. D'altronde siamo abituati, e l'avete commentato bene voi domenica scorsa da Bagheria. Dicevo, probabilmente vista anche la panchina corta, Ciccio, Massimo si sta un po' tenendo nei cambi. Sì, deve stare attento a gestire questi uomini. Noi abbiamo un giocatore in panchina che è Carlos Gal. Avrà problemi per il viaggio, per il fuso orario, come ho detto prima, ma lui può risolvere questa partita, perché lui sa giocare playmaker. Noi abbiamo un problema a portare la palla avanti, guarda, pure Pirrone non è playmaker, fanno fatica a portare la palla avanti, la difesa se ne accorge e gli sta dando un enorme fastidio. Con Carlos, che è intelligente, queste cose non succederebbero, andremo subito in soprannumero e Trapani cambia il suo approccio difensivo subito. Questo sicuramente. Carlos è un giocatore più temibile rispetto alle nostre due guardie, ci facciamo scappare. Guarda questo ragazzino Gentile, veramente quello che sta riuscendo a fare fino ad ora, e con questo assist siamo liberi sul perimetro, penetra e scarica, poi è una cosa più semplice. Ecco qua, pure Monaco affrettoloso, non c'è un regista, qualcuno che le calmi. Ecco Massimo Fiasconaro, che ha il radio trasmittente in testa, ci ascolta. Io l'ho detto, secondo me io lo dico dal primo giorno che abbiamo deciso di fare la radiocronaca. Probabilmente tu hai un collegamento virtuale con Massimo Piasconaro, perché subito ti ho ascoltato. Allora, sulla sedia dei cambi si sono seduti sia Totò Maniscalco che Carlo Scallo. Non esiste che Carmelo Monaco debba compiere questo, debba fare questo fallo in aiuto difensivo, perché purtroppo questo ragazzino numero 7 avrà 17 anni, credo 17 anni, mette in crisi la prima linea difensiva della nostra difesa. Abbiamo lasciato un varco enorme e Carmelo Monaco in aiuto è dovuto intervenire con questo fallo. Intanto entrano per noi Totò Maniscalco e Carlos Gallo, escono Carmelo Monaco. È scappato a Pirrone, però questo Gentile, quindi. Pirrone deve stare un poco più attento, perché non può cercare di fregare la palla a un ragazzino che è visto che è molto bravo in uno contro uno, quindi gli si concede quel mezzo metro e poi si chiama sempre l'aiuto, e tutta la squadra deve stare attenta se è battuto il proprio compagno ad aiutarlo. In questo modo ci vorrebbero gli uomini che stanno a due passaggi pronti, ecco, a intervenire. Peppe che non prende neanche il rimbalzo, però fino al primo pallone per Carlos. Ecco Carlos Gallo, ecco, che ecco, porta ecco, la palla Carlos avanti. Ecco, con l'esperienza tiene lontano il suo difensore. Mi piace questa storia, questa lotta. La squadra comunque si affida, non gioca la squadra, comunque non gioca. Fallo di Carlos Gallo in contropiede, parte subito il Trapani. Ti ho detto, Peppe, questa partita non è facile, questi ragazzi ora cominciano a prendere coraggio, se tu li bastoni subito questi si incanalano, perché sono ragazzini e sono piccoli di età in un determinato modo, non li bastoni subito, te li porti addosso per tutta la partita. Esattamente, adesso io penso che alla fine del primo quarto dobbiamo correre ai ripari, perché altrimenti rischiamo veramente che Trapani se ne vada. Sono 7 i punti di vantaggio per ora della compagine trapanese, adesso addirittura 8, siamo 22 Trapani, 14 Cefalù, e ancora il Trapani con il suo numero 12 di vita in lunetta, a segno anche per il secondo tiro libero, 23-14 quando manca 1 minuto e 15 secondi allo scadere. Carlos Gallo chiama intanto lo schema, si libera un'altra guardia, si libera Maniscalco sulla tre quarti sinistra, si gira la palla. Io penso che se facciamo girare la palla Trapani viene messo in crisi. Nuovamente passi per Peppe Terrasi che si arrabbia un poco con l'arbitro, si arrabbia pure con Massimo. Non deve partire da fermo Peppe Terrasi, ogni volta lo marcano forte, lo spingono e quindi non gli fanno fare canestro. È la difesa che ora deve fare un sacrificio per recuperare e non farli segnare. Passato a uomo Massimo Piasconaro, vedi come va via questo ragazzino sul perimetro, è libero e ci grazia che non segna, però questo ragazzino numero 7 riesce a trovare libero sul perimetro un sacco di compagni. Guarda che fatica che fa Cefalù a mettere a posto la squadra, guarda che fatica fanno a far partire lo schema. E questa è la fatica maggiore. Palla a Terrasi, ora Carlos Gallo, guarda come si cerca di dimenare, soluzione personale. Carlos pure ha sbagliato questo passaggio, ma l'unico che si muove è Sgarrata, esatto. L'unico che si muove, per cui Cefalù veramente deve trovare tanta lucidità e tanto fosforo, tanta tranquillità per cominciare a giocare a basket e non a inventare. 6 secondi, l'ultimo tiro di questo quarto, vediamo se questo Gentile riusciamo a strappare questo rimbalzo con Terrasi e tiriamo allo scadere con Pirrone. 23-14, va in archivio il primo quarto. Trapani ci sta non solo mettendo in difficoltà, ma è tanto avanti. Per ora sono 9 i punti di vantaggio, punti che se cambiamo marcia naturalmente riusciamo a recuperare. Intanto non so se hai notato che come dicevi tu li ha messi a uomo e poi ha messo l'uomo che da noi ha più gambe rispetto al resto della squadra, cioè Totò Maniscalco, proprio sul numero 7 per cercare di limitare i danni. Quindi Massimo sta cercando di leggere la partita, speriamo che in campo i giocatori riescano a fare quello che l'allenatore poi alla fine dice di fare. E allora diamo un po' di pausa ai nostri due commentatori tecnici di questo incontro. Ricordiamo, siamo sotto di 9, consentitemi questo termine, siamo sotto, un po' di patriottismo in questo caso, ma ci può anche stare. Zanella Basket contro Trapani, ricordiamo siamo in diretta dal Pala Ignazio Cefalù per questa radio cronaca di questo ennesimo incontro di campionato maschile Serie C. Dovevamo ringraziare, d'obbligo farlo, anche il nostro editore Angelo Arduino, che ci consente e consente quindi ai tanti radioascoltatori, anche quelli, e Ciccio adesso mi verrà incontro, ti faccio un assist, anche quelli che ci ascoltano da oltre stretto, quindi da Napoli. C'ho una folta schiera di parenti che aspetta questo appuntamento per vedermi e sentirmi. Quindi, allo stesso tempo, un'occasione per farsi sentire, soprattutto per farsi vedere, visto che la nostra radiocronaca non è solo radiocronaca ma anche una telecronaca, perché usufruiamo del nostro portale, il nostro sito CRMP Radio. Basta aprire l'home page e da là seguire la diretta. Ricomincia l'incontro, secondo quarto, dei Belli Vecchi. Allora, siamo tornati in campo noi con la stessa squadra del primo quarto, abbiamo anche cambiato un po' il modulo d'attacco, abbiamo cambiato gli schemi. Trapani invece difende, per ora sta difendendo un po' a zona e prova una penetrazione Carlos Gallo, ma nulla di fatto. È strano, Ciccio, che noi abbiamo una superiorità in termini di altezza che è davvero abissale e non riusciamo a sfruttarla. Non sfruttiamo perché Peppe è servito male, perché Carlo, eccolo qua, finalmente in contropiede, buona l'azione di Pirrone, buono il contropiede, Maniscalco. Ti dicevo, Carlos si vede che è stanchissimo forse del viaggio, un palleggio in più andava fino a sotto, e questa squadra ha sempre dei cecchini, delle persone pronte sul perimetro, si affida alle penetrazioni di questo numero 7 Gentile, che fra l'altro ha pure un buon tiro, e quindi Cefalù deve pigliare le misure a elastico, uscire sul tiro e chiudersi per non prendere il rimbalzo. Il dominio sotto canestro non lo stiamo esercitando, nel momento in cui esercitiamo dominio sotto canestro facciamo qualche contropiede in più e quindi la partita si incanala come deve essere. Se continuiamo invece a difendere male e a subire contropiede e penetrazioni, vedi Peppe come si fa battere dall'angolo, prima o poi segnano, poi sul perimetro sono fermi, stanno là da due secondi ad aspettare la palla. È matematicamente provato che un giocatore così da fermo coi piedi sul perimetro la mette più facilmente dentro. Peppe risponde con un tiro da tre un poco forzato, ma ci voleva perché dobbiamo recuperare 7 punti, 19-26, 8-28 dalla fine di questo secondo quarto. Allora Cefalù sembra messa a uomo, intanto fischiano passi a un giocatore, prima mi sembrava una bozza di box in one con Toto Maniscalco che marcava il numero 7, no, invece siamo passati totalmente a uomo adesso. Intanto Cefalù nuovamente in avanti con Carlos Gallo, esce fuori in posizione pivot alto Peppe Terrasi. Io non capisco, guarda è stranissimo, abbiamo veramente difficoltà a servire i lunghi. Adesso Maniscalco prova da tre, non entra, grande rimbalzo di Nino Sgarlata, rimbalzo, prova ad andare al tiro ma nulla di fatto, speriamo che non subiamo il contropiede in questo ribaltamento di fronte. No, la nostra difesa è riuscita un pochettino a risolvere, ma una penetrazione da parte di Trapani, fortunatamente perdono palla. Questo errore di gioventù, vedi, questo era completamente libero, un palleggio a resta e tiro, ho voluto andare fino in fondo mentre poteva tirare benissimo. Ecco la gioventù, esatto, che guarda, esatto, l'allenatore, esatto, perché pende dalle labbra, l'allenatore si dimentica. Però a questo punto non so la percentuale di sbaglio della squadra dell'allenatore, perché tu in un contropiede non puoi chiamare i giocatori, perché effettivamente erano tutti fermi a guardare il coach e noi siamo andati a canestro quasi. Ma si fermano i ragazzini che pendono dalle labbra dell'allenatore, i giocatori esperti di solito pensano alla partita. Quindi errori, come vedi, ci sono i lati positivi e i lati negativi a essere giovani. Di nuovo contropiede Gentile, passa la palla, ecco questo sbaglia, fa canestro. Cefalù non deve perdere più palloni. Se Carlos, che sta in testa ardendo, in passaggi lob a Sgarlata che sono stati quasi tutti intercettati. Del resto diciamo che l'unico che si muove per ricevere la palla sembra stasera sia proprio Sgarlata. Anche credo che gli hanno preso un po' le misure, perché anche sulle palle alte adesso comincia ad avere qualche problemino, Giuseppe. No, finalmente l'arbitro si è accorto di una cosa. Sgarlata è circa 10 cm più alto del giocatore che se lo marca. E diciamo guarda, viene sempre cinturato da chi se lo marca, quindi non è facile, nonostante il peso di Sgarlata, non è facile liberarsi da un avversario che ti cintura. Forse dico, azzarderei che Peppe Terrasi sta entrando in partita, perché adesso ha fatto la riuscita a fare Roberto libero. tirare da fuori non è per uno di 2,4 metri, certo, cioè sta certo forzando un poco, lui deve stare là sotto. Speriamo che comunque si stia svegliando, almeno sta pigliando iniziative, perché a me è piaciuto quel tiro da tre perché ha avuto coraggio, è andata bene, e Massimo Fiasconaro ha mantenuto un po' della sua voce, andava male, Massimo Fiasconaro perdeva un quarto della sua potenzialità vocale. Esattamente. Intanto ancora Trapani in avanti, lo ricordiamo il punteggio 28 Trapani 22 Zannella Basket Cefalù, 6:35 al termine di questo secondo quarto. Sono davvero rapidi, guarda come si smarcano e come non hanno timore reverenziale, lo dobbiamo dire, tirano da fuori, attaccano questa squadra nostra sia per linee esterne che per penetrazioni, sono davvero bravi questi ragazzini. Noi non riusciamo invece a essere molto offensivi in fase d'attacco. Prova adesso una penetrazione Totò Maniscalco e subisce fallo, buona penetrazione, ma è quello che dobbiamo fare, penetra e scarica, doveva tirare prima, esatto, filtrare il tiro e penetrare, perché i ragazzi difendono troppo fuori, sono troppo aggressivi, del resto sono giovani e si allenano così. Loro, come hai detto tu, in attacco non hanno paura, se sono liberi mezzo metro tirano, e tirano tutti e cinque, perché la squadra costruisce lo spazio, se ti lascia la squadra avversaria mezzo metro tu devi tirare. Mentalità di giovani allenati in un grande club, in un club che ha fatto pure la Serie A, esattamente, e questo è in un club che ha fatto del proprio vivaio una grande, esatto, forza, cucina di campioni. Allora 23-28, Maniscalco ha messo a segno uno dei due tiri liberi, intanto Pirrone in posizione di playmaker, passa su Gallo che serve una palla buona a Nino Sgarlata, ma che ha tornato da tre avversari. E adesso subiamo una schiacciata in contropiede da parte ed del... eccolo campo, questo ragazzo doveva giocare in serie superiore, ha delle potenzialità, poi ha avuto un po' di infiammazione alle ginocchia, infatti gioca con due si chiamano questi qua, non mi ricordo come, comunque limitano l'infiammazione proprio del ginocchio. È un ragazzo che salta tantissimo, questo si è allenato tanti anni a Trapani col basket Trapani. In contropiede ha fatto vedere che senza paura ha schiacciato a due mani in faccia a Maniscalco. Buono Peppe Terrasi, che si libera dall'angolo, 25-30 a 5-16 dalla fine del secondo quarto. Allora, visto che Peppe ci sono anche le note colorite, io volevo spezzare una lancia a favore del pubblico cefaludese, perché alla schiacciata è uscito fuori un applauso da parte del pubblico, quindi le belle giocate vanno premiate, e anche pubblico, se sono della squadra avversaria, anche se sono della squadra avversaria, il pubblico cefaludese infatti ha applaudito il giocatore, anche perché lo vedono bassino e non si aspettavano che lui saltasse così tanto. Io l'avevo detto prima a Peppe, questo 24 salta. Ora sta forzando un poco il gioco del Cefalù, solamente soluzione sui lunghi. Si passa da tirare così un poco forzato dalle guardie a servire solo e sempre Sgarlata e Peppe Terrasi. Allora io ti dico, intanto penso che per ora nel Cefalù l'unico che abbia un po' di lucidità mi sembra Totò Maniscalco. Le ultime due azioni sono partite da lui, sono due penetrazioni perché eravamo fermi sulle gambe in attacco, due penetrazioni inventate da Totò Maniscalco con uno scarico laterale che sono valse due canestri che ci hanno portato adesso a 5 punti da Trapani. Ma 30 anche, Trapani 25 noi. Anche a Bagheria Totò nell'entrare ha fatto un po' la differenza, ha dato quello scossone alla squadra che è riuscita poi a recuperare tutti quei punti di svantaggio, e voi l'avete egregiamente raccontato nella radiocronaca. Un po' fortunato invece Trapani in occasione di questo canestro, passa a 32 punti, ha preso un campo sfida a viso aperto Sgarlata, sfruttando la sua giovanità contro l'agilità di Coso. Buona la palla di Tumminello, può essere questo una cosa fondamentale per un giovane, sbloccarsi con un bel assist significa dargli tanto di quella carica, perché lui aveva iniziato male, che questo ragazzo può svoltare la partita ora, in perché questa... era quello che mancava a Cefalù, un playmaker. In questa azione abbiamo visto una grande furbata di Carlos, che quando ha visto che praticamente il blocco non funzionava, contropiede di Maniscalco, buona la difesa del Cefalù che ha chiuso sulle penetrazioni. Io penso che per come era partito Totò voleva andare a pareggiare la schiacciata, purtroppo non è stato felice l'aggancio, gli è scivolata la palla, però Peppe non è consigliabile, non è consigliabile, però gliela voleva restituire, ma va bene così, è andato a canestro, ci stiamo avvicinando, 29-32, mancano 3 minuti e 44 secondi di questo secondo quarto, 29 Cefalù 32 Trapani. Intanto c'è una sospensione, no, ci sono tiri liberi per un fallo tecnico fischiato al tecnico fischiato all'allenatore. Intanto Scarlata mette a segno il primo punto, 32 a 30, vediamo sta anche dentro il secondo e adesso col possesso di palla potrebbe essere minimo scatto, 31-32. Nino chiama il sesto uomo, il pubblico di Cefalù che risponde alla grande perché ormai ci siamo avvicinati, 31-32 e abbiamo quasi accelerato della palla e quindi possibilità di superare per la prima volta il Trapani in questa partita. Tumminello, ecco, già è più sicuro come tiene questa palla, ha chiamato lo schema, aspetta Carlos che esce, la difesa è buona dei ragazzini del Trapani e Carlos ha un bel da fare, forza e fa canestro. Ed eccola qua la palla del sorpasso, 33-32 scusate, per il basket Zannella Cefalù, siamo in vantaggio, ormai diciamo che è questa la scia da seguire, Ciccio. È questa la scia, la difesa sporca di Cefalù che ha fatto recuperare quattro palloni. Io farei un filmato solo sulle mani di Carlos Gallo, ragazzi, guardate e concentratevi sulle mani di Carlos Gallo quando è in difesa, riesce a toccare, a sfiorare, a urtare, a dare fastidio a tutti i giocatori che hanno il pallone in mano. E non questo... poteva essere altrimenti, Peppe, c'è la sospensione da parte di Trapani. E Trapani ha un allenatore che con i giovani sa come deve comportarsi, naturalmente li richiama subito a far gruppo perché non ci voleva, siamo passati da più 10 a meno 1, naturalmente era normale che l'allenatore chiamasse questa sospensione, anche Fiasconaro avrà il suo bel da fare quando mancano 3 minuti e 13 secondi alla fine di questo secondo quarto. Aneddoto su Giacomo Genovese che per gli amici di Trapani che ci seguiranno, spero anche loro, visto che c'è questa partita 80-81, partita, quinta partita, distorsione a casa con la caviglia gonfia, arriva questo ragazzino, perché lui è molto più piccolo di me, con una torta di mele fatta dalla mamma per consolarmi che io mi ero distorta la caviglia, perché era una famiglia di appassionati di basket, e da allora lui sempre al campo di basket, che lui è amico se non parente, se non mi sbaglio, sia di Magaddino che di Barraco, Peppe Barraco, grande bandiera del basket trapanese, un ragazzo che ha vissuto solamente di basket, un bravissimo ragazzo, anche se quando giocava contro Cefalù allenando il Trapani abbiamo litigato ferocemente, sempre per una palla persa, una palla in più, per condizionare un poco di più gli arbitri a nostro favore. Ma quello si chiama puro agonismo sportivo. Bravo! È puro agonismo sportivo. Ritornano in campo i ragazzi dopo la sospensione chiesta da Trapani. Risultato 33-32 per il basket. Perdiamo questa palla in attacco, non ci voleva, intercettato questo passaggio nei confronti di Peppe Terrasi. Devo dire anche un'altra cosa, Trapani senza il piccolo Gentile in campo non ragiona nella stessa maniera. Eh sì, la palla circola in un modo diverso. Tumminello lancia per Peppe, lavora sotto canestro, Scarlata dall'angolo toccò, preferisce la penetrazione, era libero, poteva tirare. Buono il fallo subito, due tiri liberi, buona la penetrazione. Peccato, bella la penetrazione, prende ferro perché se entrava era una bellissima azione da parte di Dottor Maniscalco, che credo sia entrato subito in partita, Giuseppe. Ma al di là del fatto che sia entrato in partita, credo che con queste difese a uomo che ti danno un metro, Totò vada veramente a nozze, perché fa dell'uno contro uno uno dei suoi punti di forza. Contro i giovani devono giocare i giocatori esperti, quindi anche Monaco in panchina per me dovrebbe stare in campo, però c'è bisogno anche di un po' di freschezza di qualche giorno per bloccare la velocità di questi giorni, quindi due esperti stanno cambiando la faccia della partita, all'inizio sulle spalle tutto di Scarlata, l'uomo più esperto, poi Carlos Gallo, Totò Maniscalco. E poi credo che valga anche la regola che si dice che squadra vincente non si tocca, abbiamo azzerato i 10 punti di svantaggio, siamo più 3, quindi credo sia giusto che in questo caso Massimo tenga questo quintetto in campo. Il 7 intanto è rientrato in campo e l'arbitro fischia passi, non ho capito a chi. Passi a Tumminello. Ma Tumminello. Tra l'altro fortunatamente avevamo anche perso la palla perché Tuminelli era stato anche anticipato da questo ragazzetto Gentile, Gentile è veramente rapido sulle gambe. Ma poi anche un consentimi il termine, non è che sia un è abbastanza mingarlino, sì, consentendomi il termine, però è una scheggia, però è Roberto, una scheggia, guarda, è veramente una scheggia. Guardalo ora, guarda Tuminello se riesce a mantenerlo. Ora poi ti faccio vedere il prossimo uno contro uno. Tuminelli l'ha tenuto un po' qua, lui non ha deciso di non entrare. No, mi piace questo ragazzino, tra l'altro un ragazzino che ha 17 anni. Guarda, va dall'arbitro e dice chiama il nei cambi difensivi, gli è finita addosso Sgarlata, va uno contro uno, sbaglia per poco, però lui ha letto che era marcato da un uomo che non l'avrebbe sicuramente tenuto come Sgarlata, e ha fatto uno contro uno. Recuperano ancora la palla, però questi del Trapani sono questi palloni sporchi che ti fanno vincere le partite. No, non si ferma, perde palla, va a rincorrere, va subito in pressing, quindi un ragazzino da tenere veramente d'occhio per questo campionato. C'è un solo tiro in quest'ultimo quarto, mancano 15 secondi, Gentile alla rimessa, adesso Campo che manovra per i propri compagni, Trapani in attacco naturalmente. Ah no, scusatemi, è un minuto e 40, non 15 secondi, ero convinto fossero 15 secondi al termine del secondo quarto. Niente, 1.36 adesso al termine, e Trapani che va a segno, 35 Cefalù, 34 Trapani. L'inserimento di nuovo di Gentile ci sta mettendo in crisi, un ragazzo di 17 anni mette in crisi una squadra come la nostra. Diciamo che la squadra gioca meglio con lui, prova Tuminello sull'arco da tre ma non trova neanche il ferro. Gentile lancia nell'angolo, Campo che libero, andrà uno contro uno fino a sotto e fa canestro. Questo ragazzo ha visto come vola e ondeggia nell'aria, è veramente forte questo ragazzino, ho visto giocare pure altre volte e mi ha impressionato. È un poco lunatico comunque, però peccato, sbaglia Terrasi mi pare, o Sgarlata. Terrasi sul perimetro, piede fermo, vedi il tiro è uscito di poco, è stato due secondi, ha potuto mirare, ha potuto guardare. Ed è questo che non dobbiamo concedere, ci è andato bene 35-36, ancora 40 secondi dalla fine, due palle perse negli ultimi due attacchi da parte del Cefalù. Asse e... peccato. Un po' di leziosismo in questo caso, però non porta a niente, infatti. E Campo ondeggia, vola, galleggia nell'aria e fa altri due punti. Non solo fa altri due punti, ma non so se hai visto come protegge la palla col corpo quando va in penetrazione, è veramente un giocatore che usa la testa quando ha la palla in mano. Rimane in aria, in sospensione diciamo questo ragazzo, perché salta tanto, quindi deve avere ottimi addominali. Per io poi ragazzi non so se avete notato, il nostro buon editore Angelo Arduino sta portando avanti sempre più la tecnologia. Se prima andavamo in monocamera, adesso siamo riusciti ad avere anche una regia video che ci consente di metterci in primo piano durante la radiocronaca e soprattutto poi di volta in volta seguire le azioni salienti di questo incontro o dei vari incontri che andiamo a seguire. Allora, dal Palegnato Cefalù ancora un ben ritrovati sui 101.4 di CRMP Radio, chi ci sta seguendo ancora la vecchia maniera via Ether, e poi naturalmente i tanti amici che ci seguono via internet crmpradio.it. volevo anche segnalarvi il nostro profilo Facebook, ormai se non parlo di Facebook sei indietro. E allora CRMP Radio, seguiteci, chiedeteci l'amicizia, saremo ben lieti di avervi come amici per questa realtà che ormai è diventata davvero seguitissima, ovvero CRMP Radio, che poi di conseguenza vi regala tante emozioni come in questo caso con il basket. E intanto ci vediamo l'ultima azione di questo secondo quarto e Cefalù in attacco, naturalmente sfrutteremo 6 secondi, 24 secondi per perde palla Tuminello, 2-1 canestro buono, giusto in tempo per subire. Andiamo al riposo, 40 Trapani, 35 Cefalù. Io credo che adesso Massimo Fesconaro dovrà strigliare i suoi negli spogliatoi, perché non possiamo essere messi in crisi da un giocatore che è Gentile, che ha 17 anni e fa degli assist fenomenali a campo, ma credo che tutte le palle di Trapani, tutte le palle importanti siano passate per le mani di Gentile. Cosa dire però Peppe? Tuminello ha perso 2-3 palloni, pure l'ultimo. Questo ragazzo, se tu sai che deve giocare perché hai due giocatori che ti mancheranno come Fabrizio Cefalù e come Angelo Lombardo, allora tu lo devi far giocare nelle partite antecedenti. Non ha mai giocato, è stato messo in quintetto dall'inizio, è ovvio che ti fa questa, e probabilmente sente naturalmente il peso, ti fa questi risultati, ti fa questa partita. Allora? Ragazzo, io l'ho visto in allenamento, è abbastanza bravo, solo che è molto molto però, contratto. Però Ciccio, io credo di essere d'accordissimo, non potrebbe essere altrimenti con voi, quando diciamo che è un ragazzino di 17 anni, perché l'ha dimostrato, è stato fuori circa 6-7 minuti, siamo riusciti a recuperare 10 punti, è rientrato lui e il Trapani è nuovamente su di 5 punti. Allora a questo punto direi di fermarci un attimino con la radio cronaca, così riprendiamo un po' di fiato, giriamo la linea subito allo studio per intanto subito le ultime notizie, poi riprenderemo la linea ancora dal Pala Ignazio Cefalù con Roby D'Antoni, Giuseppe Rivecchi e Ciccio Delisi per continuare questa radio cronaca dell'incontro valevole per il campionato maschile Serie C regionale tra il Basket Cefalù Zannella e il Virtus Trapani. Linea allo studio. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu...